ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. I figli di Enea. Storie di nuovi italiani. Di Valentina Furlanetto. Cut between my mind and heart. I see the world. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti da Valentina Furlanetto e bentornati ai figli di Enea. Io do il benvenuto subito a Senit. Buon pomeriggio a lei, Valentina, grazie. Senit è una cantante nata a Bologna, ha genitori di origine eritrea. Senit, innanzitutto questo Eurovision Song Contest doveva tenersi nel 2020, poi tutto è slittato, ci sarà a maggio se non sbaglio, no? Esatto, sì, hai detto bene, nel senso che eravamo tutti pronti con tutto il team, e lo dico con molto orgoglio perché sono seguita da un team eccezionale che ormai mi accompagna da diverso tempo. E con la partecipazione straordinaria di Luca Tommasini come direttore creativo, chiamato apposta per consolidare e per riuscire nell'intento perlomeno di fare una bella esibizione a quello che doveva essere Eurovision 2020, e ahimè è saltato per problemi Covid, come è successo per diversi eventi nel mondo. Lei rappresenterà San Marino in questa occasione, non l'Italia. Io sono bolognese, San Marino però ho un fortissimo legame con lo stato di San Marino, perché Bologna e San Marino sono anche molto vicini come posti, come location. Vado spessissimo in Riviera Romagnola a passare l'estate o comunque così a divertirmi, e con San Marino c'era l'interesse di partecipare a Eurovision con un personaggio appunto internazionale. Avevo dei contatti perché nel 2011 avevo già partecipato appunto a Eurovision, ci era piaciuta l'esperienza a entrambi, quindi a me e allo stato di San Marino. Abbiamo sempre mantenuto degli ottimi contatti, e quindi quando è arrivata la seconda proposta ne sono stata felicissima e appunto ho deciso di riprovarci, perché l'esperienza del 2011 era stata un pochino, perlomeno per me, sottovalutata, nel senso che l'avevo fatta in maniera un po' superficiale. Non conoscevo Eurovision, non conoscevo tutta l'organizzazione, tutta questa macchina che c'è dietro questo evento, e quindi l'avevo fatto, come dire, con la mano sinistra, e mi ero ripromessa invece di riprovarci in maniera più preparata, perché invece è stata davvero un'emozione pazzesca, un'esperienza meravigliosa, non me l'aspettavo. Beh, anche Eurovision è cresciuta in questi anni, la manifestazione, no? È cambiata molto, adesso ha molto risalto anche a livello nazionale, forse nove anni fa meno. L'Italia all'epoca aveva smesso di partecipare, perché la proposta da parte di Eurovision dell'EBU viene fatta tutti gli anni, però non sempre gli stati sono a disposizione. L'Italia invece aveva deciso di ripartecipare nel 2011 con Gualazzi, e poi è venuta fuori la regola di chi appunto vinceva Sanremo. Yes, I can breathe, the fire's burning from inside, it's hard to find a reason why to fight it. Still I can breathe. Non ha mai fatto Sanremo. No, non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto, ho tentato un paio di volte, non è andata bene, e quindi l'ho congelata, l'ho messo da parte. E non è stata neanche ai talent, nonostante abbia questa collaborazione con Tommasini, che abbiamo imparato a conoscere a X Factor. Assolutamente no, con Panini, che è l'azienda che mi distribuisce e produce da diverso tempo, questo leader delle figurine famose in tutto il mondo, che ho avuto il piacere di conoscere e con la quale lavoro appunto da diverso tempo, si è pensato sempre a un progetto un pochino più lungimirante, non a situazioni come Talent o come magari quelle situazioni televisive un po' a meteora, quindi volevamo fare un discorso diverso. Poi, per carità, ci abbiamo provato sia con Sanremo che un paio di volte a fare qualche chiacchierata con addetti ai lavori per quanto riguarda i Talent, però il nostro percorso, il mio e quello di Panini, è un pochino più da, tra virgolette, da gavetta, quindi cercare i brani giusti, riuscire a fare dei bei tour, cioè cercare di essere un pochino più continuativi. Io sono sempre stata molto spaventata dall'effetto Talent, quindi, e fortunatamente anche Panini è sempre stata d'accordo con questa idea. Però ecco, Eurovision è tutta un'altra cosa, è un evento a livello mondiale, tra l'altro, come diceva benissimo lei, è cresciuto negli ultimi anni spropositatamente, cioè nel senso che ha preso tanto successo e tanta visibilità, e quindi secondo me poteva essere l'evento perfetto. Luca Tommasini era stracarico per questo progetto e poi c'è stato quello che c'è stato, ma fortuna vuole che San Marino ha deciso di ricandidarmi anche per l'anno prossimo, quindi non mi sono abbattuta, a parte le prime settimane, come dire, di amarezza e di dispiacere. Poi è ovvio che è stato tutto giustificato, perché il Covid ha colpito diverse aziende, compreso quello, il grande treno appunto di Eurovision. E quindi non mi sono abbattuta e abbiamo deciso di prenderci un po' più di tempo, inventarci altre situazioni, eventi collaterali. Ad esempio virtuali, questi clip, perché... no? Perché da luglio, esatto, state facendo, esatto, uscire con Tommasini dei clip che accompagnano i fan fino all'Eurovision, esatto, e sono delle cover. Esatto, sì, abbiamo deciso di omaggiare, di regalare ai fan di Eurovision e non solo, sempre e solo a livello virtuale, quindi su tutti i canali social, su YouTube, questi video fatti da Luca Tommasini, riarrangiati di cover di passati Eurovision, per mantenere calda la situazione di Eurovision e riuscire ad arrivare a maggio nel 2021 un pochino più solidi. You show me dance, but I'm not Patrick Swayze, you're not Jennifer Grey. Hanno avuto molte visualizzazioni, ho letto 1 milione, sì, di visualizzazioni su YouTube. Sì, noi infatti siamo tutti molto sorpresi. È un lavorone, perché poi lavorare in questa maniera con tutti i limiti del caso, perché con la situazione Covid il delirio è un pochino passato, però c'è sempre aria, come dire, bisogna sempre essere prudenti e quindi ci sono sempre un po' di limiti anche lavorativamente, però ci stiamo molto divertendo e ho trovato produttori che mi stanno aiutando a trovare sonorità nuove e diverse per queste cover che stiamo trasformando. Omaggiamo nei video, sempre grazie alla creatività anche di Luca, determinati personaggi musicali, quindi abbiamo cominciato a luglio con Cheesecake, che è una canzone della Bielorussia, omaggiando Grace Jones, e cerchiamo di dare sempre dei messaggi anche positivi, cioè il filo conduttore è sempre il senso di libertà assoluto e cercare di mantenere alto l'ottimismo e l'energia. L'ultimo di queste clip? È uscito appunto qualche giorno fa e si chiama Congratulation, è una canzone che ha vinto l'Inghilterra, la Gran Bretagna, diversi anni fa, e abbiamo omaggiato David Bowie, che secondo noi era necessario, urgente, toccare anche questo pilastro musicale. E ci siamo divertiti perché è uscito il 1° di ottobre, che è anche il giorno che ho fatto anche il giorno del mio compleanno, quindi mi sono fatta gli auguri cantando Congratulation e autodedicandomi questa canzone. Questa canzone che è un circo, è una festa, perché appunto è la festa del mio compleanno, quindi abbiamo voluto omaggiare David Bowie anche per dare un senso di energia, di allegria, insieme a personaggi bizzarri, appunto come i nani, così come il circo, in questa bellissima spiaggia, ed è stato molto molto divertente. Poi il video fortunatamente sta piacendo, è molto allegro, quindi dai, sono molto molto contenta. Poi ci saranno anche i prossimi, che adesso non posso svelare, però è sempre una bella sorpresa, cioè non vedi, ne finisci uno e non vedi l'ora di proporre già il successivo, perché con Luca è un lavoro molto stimolante. Infatti siamo qua che stiamo già pensando a maggio del 2021, però ecco, diciamo che stiamo lavorando in maniera molto graduale, molto bene. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Vabbè, noi i video in radio non li possiamo far vedere, però vi possiamo far sentire le canzoni e durante tutta la puntata sentirete appunto dei brani di Senit. Di andare a vedere il video. Sì, possiamo fare questa triangolazione, la facciamo spesso sia con i social che con internet, con tutto quello che gira sul web. Senit, dicevamo, questo è il presente. Per il passato, qual è stata la sua storia? I suoi genitori sono eritrei. Come mai sono venuti in Italia? Quando? Qual è la loro storia? Quindi la storia anche delle sue radici. Certo, mio papà è arrivato in Italia esattamente a Bologna più di 40 anni fa. Aveva un parente qua a Bologna che studiava, faceva l'università e quindi è stato invitato ad andare a trovarlo. Si è innamorato di Bologna, ovviamente la situazione in Eritrea non era delle migliori, come tra l'altro non lo è adesso, nel senso, fortunatamente non ci sono più guerre, non ci sono più disastri, però ecco, diciamo che non è che si vive nel benessere più totale. E quindi aveva voglia di provare a mettere appunto radici in una città nuova. Si è innamorata di Bologna, che come ancora è una delle poche città italiane molto accogliente, molto aperta al, tra virgolette, diverso. Fortunatamente né io né tantomeno i miei genitori abbiamo mai avuto grossi problemi. Poi è arrivata successivamente la mia mamma e poi siamo nati noi figli e sono stati bravissimi i miei genitori a crescerci nella più totale integrazione, cioè nel senso siamo appunto cresciuti a Bologna, quindi siamo cresciuti a tortellini e tagliatelle, però hanno sempre mantenuto vivo la loro cultura, le loro origini, quindi si mangia tipico eritreo. Mia mamma ancora, quando è arrabbiatissima, mi parla in eritreo, mi sgrida in eritreo, mi chiama in tigrigno, che è la lingua poi dell'Eritrea. Ci dobbiamo fermare, Senit, per un istante, perché abbiamo una piccola pausa, ma torniamo a parlare con lei e a far ascoltare ai nostri ascoltatori la sua storia tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, questa sera siamo con una cantante nata a Bologna, con genitori di origini eritree, Senit, che è con noi e ci stava raccontando della cucina che si veniva messa in tavola a casa sua tra la cucina eritrea e la cucina emiliana. Diciamo emiliana, romagnola, eritrea, ecco, diciamo così, no, non posso assolutamente scegliere tra Emilia e Romagna, e così come tra Emilia Romagna ed Eritrea. Mi sento fortunatamente, come dire, una cittadina del mondo, una zingara felice, cioè mi piace, sono già caratterialmente una persona molto eclettica e anche molto curiosa, quindi mi piace stare a casa, cioè mi piace vivermi la mia Bologna, perché per me è una città meravigliosa, e mi piace tutte le volte poter viaggiare, ma tornare anche a casa, quindi tornare a Bologna e tornare anche dalla mia famiglia eritrea. Quindi è impossibile dover scegliere, è assolutamente impossibile. Mi piace essere un po' tutt'uno, un po' tutto, ecco. Ding dong dong, when you wake up tomorrow, when the sun is up in the sky. La mia mamma con mia sorella hanno un'attività poco lontano dal centro e lavorano in un bar, quindi hanno questa attività bar, tra virgolette, latteria, dove durante il giorno sono in questo bar e tra l'altro anche lì si divertono a mischiare la cultura, perché ogni tanto mia mamma omaggia i clienti con qualche piatto tipico eritreo. Mio fratello invece, che è il più piccolino, ha deciso di andare a fare esperienza in Inghilterra, a Londra, anche perché voleva imparare l'inglese, poi si è innamorato di Londra e della cultura appunto inglese e lì è rimasto. E il papà invece ha fatto una scelta particolare? Il papà invece ha deciso, dopo tanti anni in Italia, e dopo aver raggiunto appunto la pensione, quindi aver lavorato, aver accontentato Che lavoro faceva suo padre? Anche lui lavorava con la mia mamma, avevano l'attività insieme, poi mio padre appunto ha scelto di tornare in Eritrea. E dopo grossi dibattiti, perché ovviamente staccarsi dalla famiglia è sempre molto, come dire, traumatico. Poi è vero, adesso è così facile viaggiare che dalle 2 alle 3 volte all'anno lo andiamo a trovare, perché poi in Eritrea sono rimasti anche i nonni, soprattutto materni, e i cugini, gli affetti, quindi anche, tra virgolette, una scusa per, oltre a godere della vacanza, anche per tornare un pochino a godere della natura e della, come dire, del benessere dell'Eritrea, capito? Che non è lo stesso che c'è in Italia, ma ci sono appunto altri valori. E sta bene, è sereno, è buffo perché non ci si riesce a sentire come facciamo qua, nel senso lì non ci sono addirittura i telefoni, ce n'è uno soltanto in mezzo al villaggio e quindi devi avvisare che fra 2 giorni chiami e lui arriva. No, è molto bella come cosa, lui sta bene, è tranquillo, è tornato a pascolare le sue mucche e le sue pecore ed è felicissimo. È tornato. Quindi la nostalgia l'ho spinto a tornare? Sì, assolutamente, assolutamente. Poi ovviamente dice, ho trovato un mondo come dire, l'evoluzione, no? In Italia, così come a Bologna, e tornare all'origine è un po' traumatico, però è stato così per un paio di mesi, adesso sono diversi anni che è tornato a casa, quindi è sereno e tranquillo. Ogni tanto spinge, dice, ma cosa faccio, vi vengo a trovare? Dico, no, rimani lì, veniamo noi da te, veniamo noi a trovare te. Quindi, e sua madre invece ha deciso che sta bene in Italia. Ma sì, perché dice, tu hai fatto bene perché sei riuscito a prendere anche la tua pensione. Dice, io, a me mancano ancora un po' di anni, farà sicuramente anche lei la stessa cosa. Dice, cercherà di passare più tempo, tra l'altro, con la mamma, con mia nonna, e cercherà anche lei di tornare in Eritrea. Lei diceva prima che è facile viaggiare, e lo è stato fino a poco tempo fa, in realtà adesso con il Covid è un po' più difficile. Certo. Questo non ce l'aspettavamo, nessuno di noi se lo poteva aspettare. Le distanze si erano accorciate, ora invece è cambiato tutto. Esatto. E anche da questo punto di vista, come si vive in Eritrea? Ma fortunatamente il Covid non è arrivato così forte come è arrivato qua in Europa. Infatti ci facciamo telefonate con mio padre allarmati, perché lui ovviamente legge i giornali e ci sente, ci segue ed è molto preoccupato e dispiaciuto, tanto che dice venite qua, che almeno state qua sereni e tranquilli. Però, come diceva giustamente lei, è difficile adesso viaggiare, tanto che avevamo programmato un viaggio quest'estate, ma è stato posticipato, ha dato ancora da capire, per andare giù in Eritrea a trovare mio papà. No, dicevo che era più facile viaggiare, perché se fino a qualche anno fa veramente ci mettevi giornate intere, se non di più, per arrivare in Africa, adesso con un volo di qualche ora riesci tranquillamente a raggiungere Asmara. E, ecco, diciamo che dobbiamo avere un po' di pazienza, del sano ottimismo, e aspettare, sperare che questa cosa finisca il più presto. Presidente Isaias Afewerki, esatto, che governa da tantissimi anni, esatto, per molti anni sono arrivati in Italia tanti ragazzi che cercavano di scappare a una leva militare che è infinita, non è una leva militare di un anno o due, ma obbligatoria e a vita, quindi non è un paese propriamente democratico. Che rapporti avete voi con l'Eritrea? Guardi, io in Eritrea quando ci vado semplicemente per andare a trovare mio papà e mia nonna, quindi atterro ad Asmara, prendo la macchina e poi vado nel paese, nel villaggio locale. E tutta questa tensione non la vivo, non la sento. Ho avuto modo di toccare con mano invece tutta la gestione dell'Eritrea qualche anno fa, quando mi è stata offerta la partecipazione di questo tour benefico da parte di alcuni musicisti europei con origine eritrea, quindi case come me, poi c'era un'altra cantante di Napoli, alcuni musicisti svedesi emigrati appunto in Svezia che hanno fatto carriera ma che hanno sempre origine eritrea, di fare questo tour organizzato dalla BBC di Londra per sensibilizzare il paese eritreo sul fatto che ce l'abbiamo fatta noi, ce la potete fare anche voi. Questo doveva essere il senso e il messaggio. E quindi per la prima volta ho fatto questo tour in Eritrea ed è stato bellissimo, perché ho avuto modo di coinvolgere la mia famiglia, mia nonna, tutti quanti, ed effettivamente ho visto questi paesi dove ci sono questi ragazzini che sono obbligati alla leva per moltissimo tempo. Però la cosa sconvolgente è che hanno un'indole, un animo molto, sempre molto positivo. L'Eritrea è un paese davvero molto, molto vivo, molto, molto forte, con una grande, con un grande orgoglio, cioè nel senso non è, non so come spiegarlo, è un paese davvero molto allegro, molto, molto aperto. Indomito anche, perché ha avuto un passato coloniale molto importante e l'Italia ne sa qualcosa. Esatto, esatto. Il paradosso, esatto, che politicamente è governato da questo, da questo presidente, da questo presidente despota da tantissimo tempo, che ostacola determinate decisioni appunto del popolo. Però riescono a portare alta la testa senza grosso vittimismo, non riesco a spiegarlo in parole, in altre parole. Quindi, ed è una situazione paradossale, perché ti verrebbe voglia, come appunto succede, di scappare, di fuggire, di provare a crearti una vita altrove, però ci sono altrettante persone che rimangono lì e stanno bene, tanto che mio padre ha deciso di tornare e di provare a farsi una vita laggiù. Cioè, quindi io da esterna, quando vado a trovare mio padre, la vivo in maniera più superficiale, non ho la percezione di questa grande tensione che invece ovviamente vivono alcuni eritrei. Beh sì, il presidente Isaias Afewerki, esatto, governa dal 93, quindi è come un despota infinito. E poi sappiamo appunto che ci sono limitazioni alle libertà politiche, di associazione, di informazione. Esatto. E musicalmente parlando, che riferimenti ci sono? Ma noi abbiamo provato a usare in precedenti brani con diversi produttori anche sonorità eritree. Ci sono queste percussioni, poi c'è questo animo sempre vivo. È una musica, tra virgolette, ancora un po'... adesso posso dire antica, ma non è antica, ha dei suoni, come dire, un po' retro. Tra l'altro lì hanno degli strumenti particolari che non sono utilizzati qua in Italia, quindi qualche sonorità in qualche brano abbiamo provato a usarlo, con Corrado Rustici, tra l'altro un grande produttore col quale ho lavorato negli Stati Uniti, ed è stato molto bello, ed è stato molto divertente. Però sì, adesso il mio genere è un pochino più pop, un pochino più fresh, quindi ci siamo un po' allontanati dal genere eritreo. Però ecco, diciamo che è sempre molto bello, è sempre molto piacevole conoscere suoni diversi come quelli appunto dell'Eritrea, perché sono sempre ottimi spunti. Grazie a Senit, che è stata con noi oggi pomeriggio, grazie, cantante Martina, che potete continuare a seguire, come abbiamo detto, su YouTube e poi in primavera all'Eurovision Song. Grazie Senit. Grazie, ciao Valentina, grazie. Grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto di questa puntata. Vi do appuntamento domenica prossima per altre storie di italiani con radici altrove, sempre alle 14. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.